Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer. Traduzione di Bruno Dera. Herman aveva dormito per un'ora e si era svegliato. Senza essersi spogliato, giaceva a letto con la giacca, i pantaloni, la camicia, le calze. Tamara aveva di nuovo infilato i piedi nelle maniche di un maglione e disteso sopra la coperta la sua pelliccia mangiata dalle tarme e il cappotto di Herman. Stava dicendo, oh grazie a Dio, il periodo delle mie sofferenze non è finito, mi ci ritrovo in pieno. Tu non mi crederai, Herman, ma questo mi consola un pochino. Non voglio dimenticare quello che passammo. Quando la stanza è calda, mi sembra di aver tradito tutti gli ebrei di Europa. Secondo mio zio, l'intero popolo ebraico dovrebbe starsene accosciato su bassi sgabelli a leggere il libro di Giove per l'eternità. Senza fede, Tamara, non si può nemmeno piangere i morti. Questa è di per sé una ragione sufficiente per affliggersi. Hai detto che intendevi telefonarmi, per quale ragione? Oh, non so come cominciare. Herman, in me c'è la capacità di mentire continuamente, come fai tu. La zia e lo zio mi hanno messa con le spalle al muro per quanto concerne noi due. Dato che avevo già confessato la verità a un nessuno come Peshless, in qual modo avrei potuto nasconderla ai soli parenti rimastimi al mondo? Non intendevo lamentarmi di te, Herman. La vergogna è anche mia, ma ho ritenuto di doverglielo dire. Ho creduto che sarebbero morti per l'emozione quando ho detto loro che sei sposato con una gentile. Mio zio, invece, si è limitato a sospirare. Naturalmente lui vuole che divorziamo. Ha in mente non uno, ma una decina di matrimoni per me, con uomini dotti, ottimi ebrei, tutti profughi che hanno perduto la moglie in Europa. Che cosa devo dire? Desidero risposarmi quanto tu avresti voglia di ballare sul tetto. Ma lo zio e la zia hanno insistito entrambi nel dire che tu devi divorziare da Jadwiga e metterti con me. Che divorzio devo chiederlo io? Dal loro punto di vista hanno ragione. Mia madre, benedetto sia il suo ricordo, mi raccontò una volta una storia di defunti che non sanno di essere morti. Mangiano, bevono, addirittura si sposano. E quindi, poiché un tempo vivemmo insieme, avemmo dei figli e ora vaghiamo insieme nel mondo delle illusioni, perché ci occorre il divorzio? Tamara, possono mettere in prigione anche un cadavere. Ma nessuno ti metterà in prigione. E poi, perché hai tanta paura del carcere? Là potresti trovarti meglio di adesso. Non voglio che mi rimandino in Europa, non voglio essere seppellito in Polonia. Ma chi potrebbe denunciarti? La tua amante? Forse Peshless. Perché dovrebbe denunciarti? E quali prove ha? Tu non hai sposato nessuno negli Stati Uniti. Ho sposato Masha con un contratto di matrimonio ebraico. E che cosa se ne farà? Il mio consiglio è questo: torna da Jadwiga e fa la pace con lei. È questo che volevi dirmi? Non posso più lavorare per il rabbino, è fuori questione ormai. Devo pagare l'affitto e quasi non mi resta abbastanza per tirare avanti fino a domani. Herman, voglio dirti una cosa, ma non arrabbiarti con me. Di che si tratta? Herman, le persone come te sono incapaci di prendere decisioni per loro conto. È vero, non sono capace nemmeno io, ma a volte è più facile risolvere le difficoltà degli altri che le proprie. Qui in America certe persone hanno quello che si chiama un amministratore. Bene, lascia che io sia il tuo amministratore. Mettiti completamente nelle mie mani. Fingi di trovarti in un campo di concentramento e di dover fare quello che ti si dice. Ti dirò io che cosa dovrai fare e tu lo farai. Ti troverò anche un lavoro. Nel tuo stato non sei in grado di giovare a te stesso. E perché dovresti fare una cosa simile? E poi come? Questo non ti riguarda. Qualcosa farò. Incominciando da domani, provvederò a tutte le tue necessità e tu dovrai essere disposto a fare qualsiasi cosa io ti chieda. Se ti dico di andare fuori a scavare le fosse, dovrai andare a scavarle. Che cosa succederà se mi metteranno in prigione? Beh, allora ti manderò pacchi in prigione. No, davvero, Tamara, questo è soltanto un espediente per darmi i tuoi pochi dollari. No, Herman. Tu non mi toglierai niente. Incominciando da domani, mi occuperò io di tutti i tuoi affari. So di essere una novellina, ma sono abituata a vivere in luoghi sconosciuti e mi rendo conto che la situazione è diventata eccessiva per te, che tu stai per cadere sotto il peso della tua vita. Herman tacque. Poi domandò: «Sei un angelo?» «Forse. Chi lo sa che cosa sono gli angeli?» «Dicevo a me stesso che era una pazzia telefonarti a un'ora così tarda, eppure qualcosa mi ha indotto a farlo. Sì, mi metterò nelle tue mani. Non mi rimane più alcuna forza. Spogliati adesso, stai sgualcendo il vestito.» Herman discese dal letto, si tolse la giacca, i pantaloni, la cravatta, tenendo indosso soltanto la biancheria intima e i calzini. Al buio piegò il vestito sopra una sedia. Mentre si spogliava, udì il vapore sibilare nel radiatore. Si rimise a letto e Tamara gli si fece più vicina, posandogli le mani sulle costole. Herman si appisolò. Di tanto in tanto apriva un occhio. Pian piano l'oscurità cominciò a dileguarsi, udì rumori, porte che si aprivano e si chiudevano nel corridoio. I pensionanti dovevano essere persone che lavoravano e che si alzavano presto per andare al lavoro. Anche per vivere in quelle stanze miserabili bisognava guadagnare denaro. Dopo qualche tempo Herman si addormentò. Quando si destò, Tamara era già vestita. Gli disse che aveva fatto il bagno nella stanza da bagno comune. Lo guardò con aria di valutarlo e la sua faccia assunse un'espressione decisa. «Ricordi il nostro accordo? Va a lavarti. Eccoti un asciugamano.» Lui si mise il cappotto sulle spalle e uscì nel corridoio. Per tutta la mattina la gente aveva aspettato di entrare nel bagno, ma adesso la porta rimaneva aperta. Herman trovò un pezzo di sapone dimenticato da qualcuno e si lavò davanti al lavabo. L'acqua era appena tiepida. «Da dove viene la sua bontà?» si domandò. Ricordava Tamara come una donna caparbia, gelosa. Ora invece, sebbene l'avesse soppiantata con altre donne, lei sola era disposta ad aiutarlo. Che cosa significava tutto questo? Tornò nella stanza e si vestì. Tamara gli disse di scendere al piano di sotto e di chiamare di là l'ascensore. Non voleva far sapere a quelli della casa che un uomo aveva passato la notte con lei. Gli disse di aspettarla fuori. In strada, la luce del mattino lo abbacinò per un momento. La 19ª strada era piena zeppa di autocarri che scaricavano pacchi, scatoloni, casse. Nella 4ª Avenue, macchine enormi stavano eliminando la neve. I marciapiedi erano gremiti di passanti. Piccioni, sopravvissuti alla notte gelida, cercavano cibo sulla neve. Tamara condusse Herman in un ristorante economico. Gli odori erano gli stessi del locale di quella notte, a Broadway, ma lì si combinavano con quello di un disinfettante impiegato per lavare i pavimenti. Tamara non domandò nemmeno che cosa volesse ordinare. Lo fece sedere a un tavolino e gli portò succo d'arancia, un panino, un omelette e un caffè. Per un momento stette a guardarlo mentre mangiava, poi andò a prendere la colazione per sé. Herman tenne la tazza del caffè con entrambe le mani, senza sorseggiarlo, per scaldarsi. Abbassò la testa sempre e sempre più. Le donne lo avevano rovinato, ma gli avevano anche dimostrato compassione. «Riuscirò a vivere anche senza Masha», si consolò. «Tamara ha ragione. In realtà non siamo più vivi.» L'inverno era finito. Jadwiga andava in giro con la pancia appuntita. Tamara le aveva prenotato un letto in una clinica e ogni giorno parlava con lei al telefono in polacco. Le vicine non facevano che ronzarle intorno. Wojtuś cantava e ciangottava dalle prime ore del mattino alla sera. Marianna aveva deposto un piccolo uovo. Jadwiga, pur essendo stata ammonita a non fare troppe fatiche fisiche, non smetteva mai di pulire e strofinare. I pavimenti splendevano. Aveva acquistato vernice e con l'aiuto di un vicino che era stato pittore in Europa, aveva rimesso a nuovo le pareti. Nel New Jersey, Masha e Chifrapois si accingevano a celebrare la Pasqua con gli anziani e gli infermi nel convalescenziario del rabbino. Tamara aiutò Jadwiga a prepararsi alle festività. Ai vicini venne detto che Tamara era la cugina di Herman. Herman stentava a crederlo, eppure Tamara gli aveva trovato un lavoro. Reb Abraham Nissen Yaroslaver e sua moglie Sheva Hadass avevano deciso di compiere un lungo viaggio in Israele. Reb Abraham Nissen lasciava addirittura capire che vi si sarebbero potuti stabilire definitivamente. Già da qualche tempo aspettava di vendere la sua libreria, ma venderla per il poco che gli era stato offerto avrebbe significato mancare di rispetto ai libri accumulati con tanta cura. Inoltre esisteva sempre la possibilità che potesse ritornare in Israele. Tamara aveva persuaso suo zio ad affidarle il negozio. Sarebbe stata aiutata da Herman a mandarlo avanti. Qualsiasi altro difetto Herman potesse avere, era onesto nelle questioni di denaro. Tamara avrebbe abitato nell'appartamento dello zio e pagato lei l'affitto. Reb Abraham Nissen mandò a chiamare Herman e gli mostrò quel che c'era nella libreria, tutti vecchi libri. Non era mai riuscito a riordinarli. I volumi giacevano qua e là, a cataste polverose sul pavimento, molti di essi con rilegature strappate e copertine mal ridotte. In qualche posto esisteva un inventario, ma non si riusciva a trovarlo. Reb Abraham non contrattava mai con i clienti. Qualsiasi prezzo gli offrissero, lo accettava. Di che cosa avevano bisogno Sheva Hadass e lui? Nel vecchio edificio di East Broadway, dove abitavano, l'affitto era bloccato. Sebbene fosse informato sul comportamento di Herman e continuasse a esortare Tamara a divorziare da lui, il vecchio riusciva ugualmente a giustificarlo in qualche modo. Perché si sarebbe dovuto pretendere che quei giovani avessero la fede se egli stesso era assillato dai dubbi? Come potevano coloro che avevano vissuto nella distruzione credere nell'Onnipotente e nella sua misericordia? In fondo al cuore, Reb Abraham Nissen non aveva alcuna simpatia per quegli ebrei ortodossi, i quali si sforzavano di fingere che l'Olocausto in Europa non avesse mai avuto luogo. Reb Abraham Nissen espresse questi pensieri a Herman nel corso di una lunga conversazione prima della sua partenza per Israele. Voleva stabilirsi in Terra Santa per evitare a se stesso l'arduo viaggio attraverso le caverne sotterranee che i defunti devono compiere prima di giungere laggiù e di risorgervi alla venuta del Messia. Il vecchio non stipulò con lui alcun contratto scritto, si accordarono verbalmente, nel senso che Herman avrebbe dedotto dagli utili della libreria tutto ciò di cui avesse avuto bisogno per vivere. Dato che Masha aveva accettato l'impiego del rabbino, Herman non si riteneva più responsabile di niente, era diventato fatalista in pratica, oltre che in teoria. Si lasciava guidare da poteri misteriosi, si chiamassero il caso, la provvidenza o Tamara. La sua sola difficoltà consisteva nella faccenda delle allucinazioni. Nella sotterranea vedeva Masha sui treni in transito lungo l'altro binario. Il telefono della libreria squillava e lui sentiva la voce di Masha. Gli occorrevano parecchi secondi per rendersi conto che non si trattava di lei. Le telefonate più frequenti erano quelle di giovani americani che domandavano se potessero vendere o regalare libri lasciati dal padre defunto. Come conoscessero l'esistenza della libreria di Reb Abraham Nissen, Herman non ne aveva idea, in quanto il vecchio non aveva mai fatto alcuna pubblicità. Tutto era un unico grande enigma per Herman. la fiducia riposta in lui da Reb Abraham, la prontezza di Tamara nell'aiutarlo, la sua dedizione a Jadwiga. Dopo quella notte sui monti Catskill, Tamara non aveva più voluto avere a che fare con lui fisicamente, la loro relazione era esclusivamente platonica. In Tamara sembrava essersi ridestato un latente senso degli affari. Con l'aiuto di Herman catalogava i libri, stabiliva i prezzi e mandava i volumi strappati a una legatoria affinché li rimettessero in ordine. Prima di Pasqua Tamara si era rifornita di vassoi, zucchetti di ogni stile e di ogni colore e persino gli appositi piatti per le azime. Aveva acquistato scialli di preghiera, filatteri, libri di preghiere stampati tanto in inglese quanto in ebraico, nonché libri di testo impiegati dai ragazzi che studiavano per il loro bar mitzvah. La menzogna concernente la vendita dei libri, ripetuta tante volte da Herman a Jadwiga, era diventata realtà. Un mattino Herman condusse con sé Jadwiga in centro a vedere il negozio. Più tardi Tamara la riaccompagnò a casa perché Jadwiga continuava ad avere paura a viaggiare da sola nella sotterranea, specie adesso che si trovava negli ultimi mesi della gravidanza. Come fu strano trovarsi a casa, al tavolo seder con Tamara e Jadwiga. Entrambe avevano insistito affinché si mettesse lo zucchetto e celebrasse l'intera cerimonia, la benedizione del vino, la divisione simbolica del prezzemolo, delle mele affettate con noce e cannella, delle uova e dell'acqua salata. Tamara formulò le quattro domande. Per lui, e probabilmente anche per Tamara, era tutto un gioco, una manifestazione di nostalgia. Ma d'altro canto, che cosa non era un gioco? In nessun campo egli avrebbe potuto trovare qualcosa che fosse reale, nemmeno nelle cosiddette scienze esatte.